próprio custo ela solitária. Passei de arbitral num volê de curso Itália. Cercavi senza sosta in mezzo a quella festa di Milano sabato sera. Una tua risposta di carta pesta, elegante e lusinghiera. Poi ci incontrammo, parlammo di brutto. Lei mi chiese cos'ho che non va. Ero battuto, quasi distrutto, ma credo nell'onestà. Avrei voluto dirti che il problema sono io, ma sei brutta per Dio. Molto contenta di quello che io le dissi. Cercai di consolarla, ma lei se ne andò incazzata. Allora andai dal mio amico Leo per chiedergli consiglio. E questo fu ciò che mi disse: non ci hai mai capito un cazzo, amico mio. Cosa farebbe un uomo, te lo spiego io. Di brutto, lui mi disse cos'ho che non va. Ne ho viste belle, ma tanto altre brutte. Per uomo se le fa tutte. Solo alla fine capì la morale. A farsi le fighe sono bravi.